dà cuore di una sensazione cronica, come una malattia senza un pulsare rapido. Rintocco al ripiego, la voglia di esistere. Di esistere.